certo, Billy, su che andiamo, su. Su che andiamo, Billy, su, su, su, su. Attento Manuele. Manuele, ci sei? Hola, hola. Manuele. Hola. Hola. Ma hola, hola, hola. Hola, hola. Attento. Ci sia l'ascolto, cambio. Manuele, hola, hola, Brigido, attento Brigido che non sta facendo di radio, cambio, hola, hola, hola, hola, oh, uno, uno, hola, hola, CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Billy! Michi para... ¡Ah, Billy! Pero pues ya tú sabes que vamos por acá, a ver si cambia este rollo aquí, que está muy largo. Proprio di acqua per fare che c'è l'acqua e poi sparita l'acqua. E la finta ha fatto. E allora dice, me la faccio vedere mi e bummi, ma non mangiarvi. Dai pizzina, bubu. Ma facendo sto di radio, perché mi stava facendo difetto stasera. Questo microfono. No, sì, perfetto come radio, ottimo. Sì, perché non sta facendo stasera? Si era inciudato lo spinotto da Riddu. Addirittura. Ui. Niente, mi sono preso questo con 27 litri di cavalli G213. Però devo vedere ancora come va a finire qua. Se non è che io faccio tutto il lavoro, metto il palo più alto, il cavo nuovo, da quanto poi mi ha già andato. Adesso vediamo come va a finire, capito? Ma dopo succede quello che succede, che ho già fatto, allora ti saprò dire se rimango qua o meno. E cappa, e infatti. Comunque la roba è pronta anche per se vado a da un'altra parte, capito? E ha preso queste pezzecchette, intanto queste qua ormai già le conosco. Ma che ce l'ho fatto io, ne vedo un palettone. E cappa. Eia, e me, ancora metti i cosi. Sto finendo. Io devo andare a farmi la rifrontura domani. Che ne ho mio bestio. Ma ci vado lo stesso. Domani è già 17. E infatti. No, me ne faccio perdere uno, Natalia. E io me ne faccio lo spesso, mi sento tu cari. Ehi, già me l'hai detto, io di meno. Comunque, quando ne ha, sì, magari di passaggio, cosa, mi telefoni e mi riporti un po'. K, quanto ne vuoi? 200, 300, 400. Chi su chi è? Va bene, me ne metto in macchina, dai. Domani dovrei scendere quelle zone e te lo porto. Ehi, K. Io cata, meno male che li ho trovati, tre passi di picciti a più. Erano i guardi ma mal cercate. Meno male che li ho trovati, tre paia d'occhiali. Cazzo, costano 500 euro questi occhiali che ho io. Tre pagine a giubbesso, tutta ora. Chi si dà lontano, infatti la bici l'ha giocata anche chi si dà vicino, però mi ha detto, se li deve rifare per forza sono da vicino, sono questi qui che stavo usando, capito? Ma cosa ha dato un computer, però chi si dà lontano non riesce a ciapparli. Come ho spostato tutta la roba per poter aggiustare qua, non riuscivo più a trovare. Anche a me succede, io ho messo ordine un pochettino da poco e ho trovato tante quella roba che io ho detto che c'è insistita, boh, e invece mi piano piano ci da pura, capite te. Poi c'ho anche uno serio nuovo ancora scatolato con tante telecamere per la macchina, di Manni, 2D come si chiama, boh, enorme, bene, su quel, con lo schermo grande. Ma tu quando mi danno la macchina nuova lo piazzerò lì. E non lo trovo più e l'ha già avuto. C'è tante cose, c'ho anche un carocchiale che è potente, col cavalletto tutto, piccolino però. Certo, ma bello, me ne sono sempre potente. E non riesce più a trovarlo, e l'ha già avuto. C'ho una telecamera per la macchina, e l'ha già avuto. Insomma, però adesso mettendo in un posto dove ho tutta la roba, che sono sicuro se mi serve ando la piglio. Ma è così da tagli fortuna, che la cosa non c'ha più. Poi quando neanche disivi, tacchere e c'è una fura. È così purtroppo. Perché comincia a spostare una parte all'altra e poi ti dimentichi quanto la roba che va è un casino e poi quando non lo vuoi, infatti adesso non mi frega più, è soltanto una macchina, roba elettronica e boom. E infatti. E Gianni, oggi lo sei sentito. Scusa Tony che mi stava dicendo cosa mia moglie. Ok, già sono qua, non preoccuparti. Sai quello che devi fare. Scusa Tony che adesso devo preparare a mangiare. Devo preparare e mi devo allontanare. E è già arrivata mia moglie. Ok, d'accordo, Natali. Buona preparazione c'era allora. Saluto mia concetta. Se manco poi l'ascolto, c'è tre Gianni che sono due chiacchiere, se no sbatto la mano una parte all'altra, se non c'è nessuno più tardi poi spiego tutto. Ok dai Natali, ci sentiamo alle prossime, stammi bene e buon proseguo di cucina. Ciao ciao, altrettanto. Grazie, ciao ciao. Ciao. Brecco. Hola, hola, attenzione, canale 10.